Gastronauta di Davide Paolini. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ebbene, oggi parleremo di un argomento che sicuramente susciterà l'interesse specialmente dei bolognesi. Allora io comincio a dare il numero verde 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. Spero che abbiate preso nota per intervenire numerosi a questa discussione, perché parleremo delle tagliatelle alla bolognese. Perché questo argomento? Innanzitutto perché è un piatto italiano molto conosciuto, specialmente anche all'estero, che è veramente taroccato un po' ovunque, ma anche perché un po' di giorni fa c'è stata un'operazione, così una bellissima operazione del gruppo virtuale Cuochi Italiani, che hanno cercato di diffondere questo piatto in giro per il mondo. Però Bologna si è sollevata contro questa operazione, come era stata gestita e il perché anche di alcune ricette che erano state presentate. Ovviamente questa, diciamo, è la posizione di alcuni bolognesi che sentiremo, ma sentiremo anche chi ha organizzato questa manifestazione e cosa dice in proposito, cosa ne pensa, se queste così accuse sono vere. Insomma, c'è stata una sollevazione di molti bolognesi, ma noi oggi vorremmo parlare non solo di questo, ma vorremmo parlare anche, appunto, delle ricette tradizionali, se si possono mantenere sempre all'estero, perché ci sono degli ingredienti che sicuramente non sono, anche ingredienti italiani che non sono ovunque. Secondo, se è positivo promuovere delle ricette italiane presentandole in altra maniera. Insomma, una serie di argomenti molto interessanti che riguardano la cucina e la gastronomia italiana. Allora, iniziamo da Bologna con un giornalista, Gianluigi Veronesi di Degusta, che ha scritto un paio di pezzi veramente molto taglienti. Innanzitutto Veronesi sostiene che anche a Bologna non si fanno più le vere tagliatelle bolognesi, però ha attaccato molto duramente questa operazione, diciamo fatta un po' in diversi paesi del mondo, dicendo che sono stati usati degli ingredienti come l'aglio, come l'alloro, che non fanno parte della tradizione. Buongiorno a Gianluigi Veronesi. Buongiorno Paolo, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori, buongiorno a voi. Bene, allora mi racconti un po' quali sono così... Dunque, diciamo, la posizione è questa. C'è stata questa iniziativa, è stata presentata alla città, e la città purtroppo con notevolissimo ritardo rispetto a quando l'iniziativa è stata presentata ha deciso di aderire. Questo ovviamente ha comportato, per quello che è il mio punto di vista, una frettolosa messa in campo di tutte quelle che sono le azioni necessarie a promuovere un evento. Poi, devo dire, io sono rimasto sbalordito, sono rimasto a bocca aperta per l'ottimo lavoro che è stato fatto, per tutto quello che è stato speso, se vediamo l'evento appunto come è stato definito, come Ola della tagliatella. Quindi io mi prefiguro, mi immagino la Ola, quindi veramente un evento mediatico, cioè parliamo di tagliatella in tutto il mondo e ci sta benissimo. Dov'è che è nato il mio però? Il mio però è nato nel momento in cui io ho ricevuto, ma ho visto girare dei comunicati che dicevano che lo scopo dell'evento era quello di salvaguardare la vera tagliatella al ragù di Bologna, per esempio nei confronti di piatti come lo spaghetto bolognese, che non esiste, ma in tutto il mondo Bologna viene spesso identificata per via dello spaghetto, o comunque verso le storpiature o le malacopie che si fanno di questo piatto. Ecco, lì allora a quel punto secondo me è stato giusto mettere, come dire, sul tavolo una puntina da ingegnere. Quindi io sono stato anche molto provocatore, perché in un comunicato addirittura ho detto la città non si promuove, non si difende nella Bene. Maniera giusta. Bene, ora ti fermo un secondo perché poi continueremo. Sentiamo anche Rosario Scarpato. Rosario Scarpato è presidente onorario dell'associazione Gruppo Virtuale Cuochi Italiani, appunto, che ha organizzato questa manifestazione. Buongiorno Scarpato. Buongiorno Paolini, come sta? Saluti a tutti. Bene, ha sentito Bologna, insomma. Sì, io veramente questa cosa della sollevazione a Bologna non mi risulta, però ammetto che ci possono essere state critiche. Le dico subito che la prospettiva dalla quale noi siamo partiti è una prospettiva di gente che lavora all'estero e che si preoccupa del Made in Italy, in soldoni anche di quello che vendiamo come catena dei prodotti agroalimentari. Lo scopo della giornata delle cucine, della giornata internazionale delle cucine italiane, che quest'anno ha celebrato la terza edizione, è quella di mettere appunto i puntini sul menù per quanto è possibile per la salvaguardia di alcuni piatti simbolici della tradizione italiana che all'estero sono taroccati e storpiati. Quest'anno è toccato alle tagliatelle alla bolognese e noi abbiamo avuto quasi 600 ristoranti appartenenti al nostro network che hanno fatto il possibile per perlomeno far sapere alla gente cosa non va nella tagliatella alla bolognese e abbiamo anche diffuso le ricette più autentiche. Adesso non so che cosa è potuto succedere a Bologna, perché la verità io ho avuto solo attestati di simpatia, no, e di incoraggiamento. Guardi, le dirò che già sabato nella mia trasmissione, che non aveva questo argomento, è intervenuto un altro giornalista gastronomico bolognese che veramente parlava di reazione della città, che poi sentiremo. Quindi ci sono state tutta una serie di reazioni, soprattutto sulla ricetta. Ma io ora lancio anche ai radioascoltatori questo interrogativo. Ma si fa ancora la tagliatella con ragù alla bolognese, con ragù tradizionale? Ecco, intervenite, numero verde 800 24 00 24 349 238 6666, oppure anche si fanno ancora le ricette tradizionali, diciamo, basandosi sui principi di un tempo, oppure si può pensare che c'è una variazione nel tempo, che la tradizione non è un fatto fermo? Bene, io ritorno un secondo a Veronesi e chiedo, ma Veronesi, io so che ho visto che tu hai scritto un articolo dicendo che appunto avevi letto di alcune ricette che così diciamo che un po' cambiavano completamente la ricetta tradizionale, è così? Sì, ripeto, anche questa è stata una, a mio avviso, una bella provocazione. Chiamo in ballo per esempio il grande Caramella, lo chef internazionale che poi è stato anche promotore di questa manifestazione. Allora, lui per esempio, ho letto una suo comunicato in internet dove dice, vi spiego come si fa il ragù, il vero ragù di Bologna. Lui ha preso la ricetta che nel 1982 l'Accademia della Cucina Italiana ha depositato alla Camera di Commercio di Bologna, ha fatto il copia e incolla e l'ha messa, diciamo, a disposizione di tutti, e va benissimo. Ma questa ricetta ha un contenuto che veramente fa pensare, perché dice, la ricetta depositata dall'Accademia della Cucina Italiana, che nel ragù ci va sia il latte sia il vino, e questo già il giorno stesso, cioè già il giorno 17, che è stato il giorno della ola della tagliatella, per chi si è ritrovato come me insieme a tutta una serie di persone che hanno seguito la cosa e l'hanno commentata insieme a una buona parte di chi costituisce anche amministrativamente, politicamente la città, ma anche con tanti enogastronomi, vignaioli, ci siamo trovati tutti, c'era veramente, non dico un disgusto perché esagererei, però c'era una contestazione fortissima sul fatto che il latte con il vino fa a pugni. Bene. Quindi la provocazione qual era? Che io mi sarei aspettato dal grande Caramella che, per esempio, uno chef come lui avesse detto: questa è la ricetta depositata alla Camera di Commercio, ma i tempi sono cambiati, le ricette possono essere anche oggetto eventualmente di interpretazioni, secondo me il latte e il vino fanno. Bene, grazie Veronesi, sentiamo Claudio da Vicenza, un radioascoltatore. Buongiorno. Buongiorno, mi dica. Lei e agli ascoltatori. Io sono ancora una di quelle persone che ogni domenica dedica 3 ore alla preparazione del ragù, secondo l'insegnamento di Carnacina, cioè il ragù tradizionale italiano. Magari a Vicenza lo mangiamo con i bigoli e non con le tagliatelle, però questa tradizione nel nostro territorio è ben consolidata, molte famiglie lo fanno. Chiaro che ci vuole del tempo, magari adesso la cucina è cambiata perché il tempo a disposizione è sempre meno, le donne lavorano tutte, le mamme non sono più in casa, ma quando si può queste bene, cose... Bene, grazie. Grazie Claudio da Vicenza. Il gastronauta. Ragù, sempre a ragù, come scriveva Edoardo De Filippo nel suo libro di ricette. Ebbene, non dimentichiamo che esiste anche la ricetta del ragù alla napoletana. Ebbene, magari facciamo intervenite qualche radioascoltatore napoletano, magari a parlare del ragù alla napoletana. Numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Ma si fa ancora il ragù alla napoletana? I napoletani hanno ancora tempo per farlo. Sentiamo una radioascoltatrice, Saveria, dalla provincia di Ancona. Buongiorno Saveria. buongiorno signor Paolini, io sono Emiliana, abito a 35 anni a Iesi, ma ancora faccio il ragù che faceva la mia nonna in provincia di Bologna, perché sono originaria di Malalbergo, nella provincia di Bologna. Innanzitutto bisogna utilizzare il tegame giusto e io utilizzo un tegame di coccio che metto sul fuoco per fare il soffritto con sedano, carota e cipolla, ma è sempre lo stesso tegame di coccio perché così non prende gli odori degli altri intingoli. Poi lo faccio soffriggendo gli odori, utilizzo carne di scannello magra, lo faccio bollire lentamente, a un certo punto quando mi regolo aggiungo un goccino di latte, poi utilizzo il concentrato di pomodoro diluito nell'acqua e finisco, lo porto avanti col bollore lentamente. Bene, lo fa sobbollire, come si dice. Saveria, io la ringrazio, non le do più tempo perché sennò fa venire fame. Bene, continuiamo ancora anche con i nostri ospiti. Devo dire che ho ricevuto molti sms, ve ne leggo uno in particolare. La vera tradizione viene impoverita a mio avviso perché manca un ingrediente fondamentale, la pazienza. Io aggiungo forse il tempo. Bene, ritorno a Rosario Scarpato, appunto per chiedergli se ha sentito appunto le ultime battute del nostro amico Veronesi sul discorso appunto di come è stata cambiata così la ricetta tradizionale del ragù alla bolognese. Sì, io ne ho sentito, ho perduto un pezzettino perché è caduta la linea, però conosco le posizioni di Gianluigi. Il problema è che noi abbiamo detto chiaramente nel nostro sito, abbiamo pubblicato tre ricette, una che ci sembrava quella che era la sintesi di una tradizione, di quella che fanno anche i cuochi oggi e che dagli anni 60, da quando la Rosetti della Salda ha codificato la sua ricetta, ci è sembrata quella che è la ricetta che si sta usando, tra l'altro suffragata dalle sorelle simili che a Bologna sono un'autorità. Infatti la nostra ricetta, quella che abbiamo pubblicato, è leggermente diversa da quella dell'Accademia della Cucina Italiana registrata nel 1982. Ma il problema qui non è la polemica su qualche ingrediente di meno o in più, che sono tutti parte della tradizione, perché le variazioni che hanno più di 50 anni e sono radicate nel territorio vanno considerate come tradizioni, come variazioni e tradizioni. Il problema per noi che lavoriamo all'estero, io vivo a Melbourne e mi divido la vita tra Melbourne e Buenos Aires e coordino il lavoro di quasi 1000 diciamo culinary professionals, come si dice, e cercare di mettere un argine ai taroccamenti e dire: bene, noi in Italia abbiamo le variazioni perché se non avessimo le variazioni non saremmo italiani, questa è la nostra specificità che dobbiamo difendere, e allo stesso tempo dobbiamo difendere il fatto che c'è una tradizione italiana che va difesa, perché se non la difendiamo all'estero si diluisce la nostra immagine. Bene. E non c'è ragione per i nostri prodotti e la nostra cultura di andare fuori. Bene, grazie Rosario Scarpato, la ringrazio dell'intervento e buon lavoro. Sentiamo, abbiamo un radioascoltatore da Bologna, Lorenzo. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno signor Paolini, complimenti per la sua competenza. Guardi, a Bologna si fa anche, è un prodotto molto di nicchia, la torta di tagliatelle. È buonissima, è fatta con nocciole, tagliatelle, amaretti e coso. Andiamo avanti. È buonissima, è un prodotto molto di nicchia, poco conosciuto. Però si fanno anche queste cose. Grazie Lorenzo del suo intervento, così ci ha dato una ricetta in più. Ora abbiamo con noi Giorgio Menna. Giorgio Menna è un giornalista di Radio Enoga, anzi è il presidente appunto di questa organizzazione. Già era intervenuto sabato su questo. Buongiorno Menna. Buongiorno Davide, eccomi qua, buongiorno ai tuoi ascoltatori. Sei ancora arrabbiato come l'altra settimana? No, diciamo che la settimana scorsa eravamo un po' nel pieno, era un momento caldo. Comunque diciamo che piano piano gli umori vanno così calmandosi. Però ecco, il mio intervento vuole, come dire, segnare un messaggio. Intanto che da questa operazione straordinaria, perché in fin dei conti poi la tagliatelle, il ragù e la bolognesità, fra virgolette, dopo spiego perché, fra virgolette, è andata nel mondo. Noi a Bologna abbiamo perso però una grande, come dire, opportunità, si poteva giocare meglio, come ha detto Gianluigi, questa opportunità nel mondo. Poi le posizioni possono essere diverse. Per esempio, Gianluigi diceva che appunto la ricetta depositata alla Camera di Commercio, eccetera, eccetera, però Molinari Pradelli, ma non solo lui, quando parla della tagliatella al ragù, tra gli ingredienti, e fra virgolette mette facoltativo, aggiunge anche i fegatini di pollo macinato, il prosciutto crudo tritato, la salsiccia. Sì, insomma diciamo un arricchimento. Ora ti interrompo perché poi ti riprendo, perché abbiamo tanti ospiti appunto su questo. Tu hai detto un'occasione mancata, sì, e abbiamo con noi Andrea Babbi, amministratore delegato della PT dell'Emilia Romagna, che si è occupato di questa vicenda. Buongiorno Babbi. Buongiorno a tutti, buongiorno a Paolini, complimenti per la trasmissione. Occasione mancata, Babbi? Assolutamente no, forse qualcuno ha avuto l'occasione mancata di star zitto, perché quando poi il successo di questa manifestazione a Bologna è stato palese a tutti, poi ha abbassato i toni. Bologna non c'è stata nessuna sollevazione se non in senso positivo, tutta Bologna ha partecipato entusiasta, 350 ristoratori bolognesi si sono dichiarati disponibili, tutta la città si è meravigliata di questa manifestazione. È vero che è partito in ritardo, ma forse per qualcuno questo qui, come dire, ha avuto qualche responsabilità. Noi quando ce ne siamo accorti abbiamo capito l'importanza dell'evento, la straordinarietà dell'occasione per affermare il vero ragù bolognese a tutti, ed è diventata una grande manifestazione, tant'è che tutti quanti chiedono di ripeterla il prossimo anno. Bene, rimanga con noi Babbi, sentiamo Roberto da Prato. Buongiorno Roberto. Buongiorno Paolini, la ringrazio per farmi parlare. Senta, io la chiamavo per questo. Mia nonna aveva un ristorante nella provincia di Bologna. Io sono nativo di Prato, ma i miei sono della provincia di Bologna. E praticamente io ho imparato da mia madre a cucinare un po' le ricette tipiche. Sapevo che il ragù sostanzialmente andasse fatto con due tipi di carne, quindi diciamo un certo quantitativo di maiale, oltre al bovino. E il mezzo bicchiere di vino rosso, diciamo, dopo nella cottura della carne, prima di mettere il pomodoro, e poi anche un pochino di burro, diciamo una noce di burro una mezz'ora prima, una cottura media di 2 ore a seconda del quantitativo. Volevo chiederle se era giusto questo mio modo di cucinare il ragù, e poi se poteva fare una trasmissione sulle lasagne verdi alla bolognese, perché io le faccio buonissime. Bene, bene, grazie. Magari ce le farà assaggiare, mi fa venire fame. Torniamo a Giorgio Menna, poi le risponderò sul discorso del ragù, perché l'ultima parte la voglio fare tutta su questo. Menna, hai sentito Babbi? No, certo, intanto lo saluto Babbi, perché è un ottimo professionista che lavora sul territorio di Bologna, ma non solo. No, secondo me, ma secondo tanti bolognesi che lavorano nel comparto, la polemica molto probabilmente è venuta fuori per due motivazioni. La prima, che in quei giorni precedenti alla manifestazione intanto sono state fatte proposte ad aziende bolognesi da individui che hanno girato commercialmente tra le aziende proponendo la manifestazione con listini assolutamente improbabili, cioè io posso citare alcune aziende che hanno ricevuto 4 listini. Beh, Giorgio scusami, tu hai già introdotto un argomento molto importante, però io vorrei restringere il discorso, perché questo poi va a finire su tutta una serie di considerazioni in cui bisognerebbe avere qui anche il responsabile, che io non ho. Vorrei tornare, perché credo che questo sia l'argomento fondamentale, sul discorso della ricetta. Cioè la ricetta è stata fatta, è stata, diciamo così, comunicata bene o non è comunicata bene? Si deve comunicare la ricetta tradizionale? Ci possono essere variazioni sul tema? Ecco, questo credo che sia il punto. No, io penso che intanto esiste già un tesoro, che è quello della ricetta depositata alla Camera di Commercio, e su quello non si scappa. È chiaro che, come diceva Scarpato, oggi voglio dire, le variazioni sul tema ci possono stare benissimo, mantenendo la tradizione, ma a livello culturale. Noi sappiamo che a livello culturale esiste una ricetta depositata, però le variazioni sul tema ci possono stare, anche perché, a parte che i prodotti possono arrivare un po' in tutto il mondo in questo momento, certo. Però ci può stare. Secondo me la polemica è nata perché una parte di bolognesità, una parte, rispondo a Babbi, anche di professionisti, e qui mi ci metto anch'io come presidente Noga, l'associazione Noga sede a Bologna, non è stata contattata assolutamente per questa operazione, ma voglio dire, va bene così, è un'occasione persa. Grazie. Perché noi potevamo fare la nostra parte. Grazie Menna, sentiamo Giuseppe da Salerno, buongiorno Giuseppe. Sì, buongiorno Paolino, buongiorno Paolini, mi scusi, buongiorno agli ascoltatori. Io volevo spezzare una lancia sul ragù classico napoletano, visto che si parla tantissimo di ragù alla bolognese. Ecco, no? Finalmente qualcuno mi interrompe. Bene. Io sono un estimatore, mi piace cucinare e devo dire che ha un corpo, una struttura, una forza incredibile, anche il ragù napoletano. Cioè, certo, per quanto... nessuno lo mette in dubbio, l'ho preannunciato anch'io, l'avevo anticipata su questa, che mi piaceva che intervenisse da Napoli. Con il Raù. Grazie, Raù. Grazie, grazie. Sentiamo Rino dalla provincia di Pisa. Buongiorno Rino, velocissimo. Buongiorno a tutti. Volevo portare la mia esperienza in cui ho abitato 2 anni in Inghilterra. Sì. E mi sono dovuto adattare per moltissime ricette. Eh beh, questo succede. Un esempio può essere il bacon con cui ho sostituito la pancetta, o anche delle obbrobiosità che ho visto, tipo fettuccine con il pollo. Bene, ce ne sono tante in giro per il mondo. Lei ha perfettamente ragione, credo che bisogna difendere l'italianità, anche sicuramente della dicitura dei piatti, perché veramente i menù all'estero, anche di ristoranti italiani con la bandierina italiana, sono quelli, credo, quelli a cui bisogna fare un grande intervento. Sbagliano anche nello scrivere nel menù l'esatta dicitura del piatto. Il gastronauta. Eccoci di nuovo, cari gastronauti, a parlare di ragù. Ricordo numero verde 800 24 00 24. Messaggi SMS 349 238 6666. Quindi intervenite, raccontatemi come fate il ragù e aspetto anche altri napoletani. Bene, abbiamo ancora con noi Andrea Babbi, che è amministratore delegato della PT dell'Emilia Romagna, al quale voglio fare una domanda secca. Babbi, ma a Bologna nei ristoranti si mangiano ancora tagliatelle con ragù in maniera tradizionale? Sì, posso testimoniarne di prima persona, anche questo weekend appunto ho avuto, come dire, il dovere e il piacere di assaggiarne diversi, devo dire tutti di grande e di ottima qualità. Credo che anche questa manifestazione abbia un po' scosso le coscienze di tanti ristoratori che magari si erano dimenticati di proporlo anche agli avventori, ai bolognesi stessi. C'è stata veramente una festa anche per i bolognesi sul loro ragù, sul loro piatto tradizionale. C'è stato veramente quasi un eccesso di ritrovata tradizione. La ringrazio Babbi. Bene, ora rivolgeremo questa domanda a 2 ristoratori, 2 chef che abbiamo con noi, ma prima voglio leggere questo SMS. Vogliamo ricordare che occorre la carne di vitellone bianco dell'Appennino centrale, razza romagnola IGP e magari marzano DOP. Basta col ragù con carne estera e passata cinese. Mario da Modena. Bene, allora io rivolgo sia questa indicazione di Babbi sia questa ricetta. Cominciamo da Marcello Leoni, chef e patron del ristorante Il Sole, a pochi chilometri da Bologna, ma sempre bolognese. Buongiorno Leoni. Buongiorno, buongiorno a tutti. E allora tu cosa ne pensi? Che cosa pensi? A parte dire che comunque la tagliatella rimane un piatto simbolo che è straordinario. Effettivamente negli ultimi 10-15 anni forse ci si è un po' troppo adagiati per canali che portavano alla città veramente tantissimo e la città ha sfruttato tantissimo questo indotto. Secondo me bisognerebbe un po' riconcentrarsi sulla materia prima. Anche perché io una considerazione che facevo un po' in questi ultimi giorni era che la gente, soprattutto gli stranieri che vengono in Italia, sono molto attenti alla materia prima, sono veramente molto informati e ben informati. Se noi non saremo in grado di dare dei servizi a livelli più alti e a testimonianza del nostro territorio, rischiamo una parte dell'immagine che prima o poi, voglio dire, Bologna non può godere di un'immagine di diritto, deve continuare a guadagnare quello che ha, che mi sembra una cosa tra l'altro anche normale, ma che ultimamente sembra che tanto normale non sia più, insomma. Bene, rimani con noi, ora sentiamo Pietro dalla provincia di Foggia, un radioascoltatore. Buongiorno Pietro. Buongiorno Paolini, complimenti sempre per la trasmissione che è molto interessante. Senta, io sono un ex insegnante di cucina all'Istituto Alberghieri. Sì. E quando io, diciamo, ho fatto il mio primo anno di scuola 50 anni fa, avevo un libro di testo dove seguivamo le ricette chiaramente che ci insegnavano, e questo libro ce l'ho ancora qui, ce l'ho ingiallito, però c'ho una ricetta della salsa bolognese che si faceva, che ci insegnavano allora e che io ho insegnato anche per molti anni, seguendo, diciamo, i libri di testo. Non so se te la posso leggere brevemente. No, no, beh, sappiamo, insomma, sappiamo che c'è questa ricetta che gira. Allora, non me la leggere, perché abbiamo poco. Salsa alla bolognese, insomma, è un po' diverso dal ragù alla bolognese. No, eh, vabbè, questa è la salsa bolognese, chiaramente quella che si faceva nella cucina classica, negli alberghi, delle navi, perché questa è uno chef, quella che... per cui è diventata famosa la tagliatella alla bolognese. Sì, no, grazie Pietro, grazie. No, non leggiamo la ricetta di questo, diciamo, di questo testo tradizionale. Io voglio sentire ora, abbiamo con noi un altro chef bolognese, che è Massimiliano Poggi del ristorante Al Cambio. Buongiorno Poggi. Buongiorno a lei, ascoltatori, a Marcello, che è un amico in paraverso, che è in diretta anche lui. Poggi, senta, ma lei lo fa ancora il ragù alla bolognese? Ma io, guardi, premetto che per me, io non sono un cuoco che si può considerare prettamente tradizionalista e tradizionale, però ho un rispetto alla tradizione veramente forte. Il fatto sta che nel mio menù c'è proprio riportato la ricetta del tortellino tradizionale depositata alla Camera di Commercio, sempre dall'Accademia Italiana della Cucina. Però è anche vero che quella non è la ricetta che io eseguo, perché la ricetta che eseguo io è quella che faceva mio nonno e prepara mia madre ancora per noi della famiglia, per cui anche il ragù, la mia ricetta che io considero la tradizionale bolognese, è anche vero che è diversa probabilmente da quella che cucina Marcello, come può cucinare un altro cuoco che lavora sul territorio. Cioè, secondo me è un po' complesso il discorso: o limitiamo la preparazione del vero ragù bolognese al cuoco bolognese nato e cresciuto a Bologna, oppure è chiaro che le variazioni ci stanno. Secondo me, quello che dovrebbe essere fondamentale è che se a Sydney prepari una tagliatella al ragù bolognese, deve essere un ragù bolognese ottimo ed eccezionale, che trasmetta la vera immagine di Bologna. Come può succedere in tutto il mondo, mangiamo delle pizze, ho vissuto in Francia un anno, ho mangiato pizze che con la pizza non avevano niente a che fare, una bruschetta con formaggio, certo, francese, per cui secondo me è un po' complesso il discorso. Bene, rimanga con noi anche lei, Antonello da Napoli, un radioascoltatore, finalmente un altro napoletano. Buongiorno Antonello. Sì, buongiorno dottor Paolini, complimenti per la trasmissione. Io volevo intervenire non tanto sugli ingredienti che attengono alla preparazione del ragù napoletano, ma ad una considerazione relativa all'anacronismo, purtroppo, di questa ricetta, dal momento che con i tempi moderni questi diventano incompatibili con la durata della cottura del ragù napoletano. Eh beh, certo, lei, quindi è vero quello che ha scritto un radioascoltatore su SMS, che diceva che oggi il vero ingrediente che manca è la pazienza o il tempo, insomma. Perfetto, è questo. Tant'è vero che il ragù napoletano veniva definito il ragù del portinaio, del portiere, certo, che aveva la possibilità di sorvegliarlo per quella durata di 3-4 ore, per il quale il ragù doveva pippiare il fornello, quindi a fuoco basso, e assumeva quella colorazione, diciamo, piuttosto scura, che definiva bene, canonicamente. Bene, non ci sono più neppure i portieri cuochi ormai. Grazie Antonello da Napoli. Sentiamo Massimo dalla provincia di Lucca. Buongiorno Massimo. Buongiorno, io sono da Toscano, volevo dire, mia mamma, esempio, faceva il ragù, ma non col macinato. Prima prendeva la carne, la groppa e altri pezzi di carne, un pezzo di maiale, li faceva arrosto morto. Poi, quando erano cotti, li metteva sul tagliere, li tritava e poi li metteva nel soffritto fatto nell'olio dove aveva cotto questa carne, e poi metteva il pomodoro e veniva il sugo. Bene, grazie Massimo anche di questa definizione di morto, insomma vuol dire appunto che era già stracotto. Io torno un secondo, ricordo ancora numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Torno a Marcello Leoni perché voglio chiedere, Leoni, indipendentemente certo dalle variazioni dalla tradizione, ma inserire l'aglio, come così è stato detto, io ho letto che è stato fatto in questa, diciamo, prova americana, questa cena americana nel ragù, è possibile? Ma adesso, detto questo, è sempre una questione di quantità. Se uno mette uno spicchio d'aglio in camicia all'interno di un fondo, naturalmente non è che si possa considerare un ingrediente principale, è una sorta di leggero profumo che va dato. Certo non è di queste zone l'usanza dell'aglio all'interno del ragù, però era molto bello quello che ha detto adesso il signore Toscano, perché riprende una tradizione tra l'altro umbra, cioè noi purtroppo la nostra cucina, e questo lei Paolini lo sa meglio di me perché questa cosa è 30 anni avanti, noi facciamo una cucina che è rappresentativa come il dialetto del campanile, del piccolo certo. paese che era chiuso a... Adesso noi possiamo fare tutte le discussioni del mondo che vogliamo attorno a queste cose e ognuno trova la ragione per inserire la parte di storia sua. Certo. Che non è sbagliato, è giusto. Il problema è riuscire a dare delle regole in una miriade di informazioni, una differente dall'altra. Bene, grazie Leoni, grazie, a presto. Sentiamo un radioascoltatore da Bologna, è importante. Stefano da Bologna, buongiorno. Sì, buongiorno Davide. Allora, io ho fatto il cuoco tanti anni e sono un po' appassionato, diciamo così, del ragù alla bolognese. E diciamo così, io l'aglio non l'ho mai visto mettere, l'ho mangiato da tante nonne più che da tanti cuochi, da tante nonne, di amici, e stimolavo anche loro a farmi invitare a casa per mangiare il ragù, e avrei tanti aneddoti, ma non è questo il punto, non è questa la trasmissione. A proposito della ricetta, quello che volevo dire era che il ragù alla bolognese è un ragù di carne. E spesso in giro per il mondo, oppure anche fuori dall'Italia, si mangia un ragù, una salsa al pomodoro con la carne dentro. Certo, forse era quello che si riferiva il maestro dell'alberghiero quando parlava di salsa alla bolognese, probabilmente. È questa la cosa veramente che fa, secondo me, la differenza. Cioè, è un ragù fatto sobbollire con il doppio concentrato, tipo concentrato, un po' di pomodoro e poi fatto bollire. Poi c'è chi ci mette, c'era una nonna che ci metteva la noce moscata intera, proprio a bollire tutto il tempo, che dava quel leggero profumo senza appesantire troppo, i fegatini oppure le ovarine della gallina, le uova della gallina vecchie. Certo. Queste che le si grattugiava sopra. Bene. Cioè, ce ne sono poi tante, però la cosa fondamentale è il sugo, non una salsa di pomodoro con la carne dentro, ma proprio una cosa di carne, un ragù di carne. Bene, grazie Stefano da Bologna per il suo intervento, che forse ha definito i confini tra quello di cui ci parlava appunto l'insegnante di Istituto Alberghiero con il ragù. Io voglio fare un'ultima domanda a Poggi. Poggi, ma anche se lei è uno chef, l'abbinamento, ho ricevuto 2-3 sms che mi dicono ma l'avvero abbinamento del ragù è col pignoletto e non col sangiovese, lei cosa ne pensa? Ma secondo me va lasciato qui libero spazio ai gusti delle persone soggettivi. È chiaro che per me con il ragù un bel sangiovese non guasta mai. Certo. Però un pignoletto, anche se un vino molto profumato, abbastanza profumato, io preferirei un vino rosso, insomma, ragù, sempre per rimanere in tema di tradizione. Sì, certo, anche perché poi se sul ragù ci va un goccio di vino rosso, sicuramente poi mettere il pignoletto sarebbe. Grazie a Massimiliano Poggi. Il gastronauta. Chissà se abbiamo fatto venire voglia a qualcuno oggi di mangiare il ragù. Bene, sentiamo Gennaro dalla provincia di Foggia, un radioascoltatore. Buongiorno Gennaro. Buongiorno a voi. Ho sentito tutte queste varianti regionali. Volevo dire un particolare che ricordo dalla preparazione del ragù di mia nonna. Io sono di Deliceto, che è un po' a confine tra l'Irpinia e la provincia di Foggia. E riguarda il condimento, Mia nonna, mi ricordo che metteva un sapientemente mescolava grassi animali e vegetali con olio, una punta di sugna, come la chiamavamo noi, distrutto, e veniva fuori un condimento particolarmente saporito, ma non grasso, da un gusto molto particolare a quel ragù. Bene, Gennaro, ho capito, ma purtroppo si sente male perché si sente solamente a momenti, quindi la devo lasciare, magari cercheremo di ricontattarla. Sentiamo Andrea, un altro radioascoltatore dalla provincia di Cesena. Buongiorno Andrea. Buongiorno, io volevo dire che mi ricordo da piccolo mia nonna sulla stufa a legna metteva il tegame di coccio con il ragù e dentro ci metteva delle rigaglie di pollo, fegatini, frattaglie di pollo che avevamo nel cortile essendo contadini, e veniva un profumo straordinario. Bene, grazie. Scusi, volevo dire una cosa, da buon romagnolo io il ragù lo mangio con sangiovese. Bene. Buongiorno. Grazie, viva la Romagna Andrea. Bene, abbiamo con noi l'assessore all'agricoltura e sviluppo del territorio rurale della provincia di Bologna. Buongiorno a Gabriella Montera. Buongiorno a voi. Volevo chiederle cosa rappresenta diciamo per il ragù alla bolognese, per l'agricoltura diciamo di questa provincia. Beh, rappresenta molto perché è testimone di una produzione di grande qualità che parte dalla carne, no? Come si diceva nel corso della trasmissione. Bisogna fare di tutto perché la ricetta tradizionale, ma più in generale la gastronomia tradizionale di questo territorio, assurga, come dire, agli splendori di una volta, perché nella multiculturalità c'è il rischio di un po' di banalizzazione del nostro gusto. Ecco, e Bologna deve riprendere questa sua capacità di affermarsi come terra di gastronomia. Ecco, lei è convinta che i ristoranti bolognesi che presentano il ragù alla bolognese ricorrono alla carne dell'Appennino e tutti i prodotti del territorio, oppure si svicola sempre di più? Beh, io ritengo che alcuni si attengono molto alla tradizione, altri coniugano, come si dice, tradizione e innovazione. L'importante è avere ancora a cuore il menù tradizionale, ma perché rappresenta la storia, l'identità di un territorio, e Bologna da questo punto di vista, anche con i famosi spaghetti alla bolognese con cui purtroppo spesso viene riconosciuta, certo, in alcuni paesi all'estero, ecco, ha bisogno di rilanciare. Per questo dico che questa manifestazione è stata importante, l'idea anche di APT e di Babbi è stata particolarmente vincente, perché comunque bisogna riparlarne. La ricetta tradizionale è un valore, ma perde questo valore se poi alla fine, certo, ognuno, no, la declina o non la declina più, no? Perché, certo, siamo figli della cultura del food oramai internazionale, anche a Bologna. Ma forse della velocità, perché sicuramente a fare il ragù ci vuole tempo. Grazie Gabriella Montera. Bene, abbiamo con noi Daniele Minarelli, che è il patron dell'osteria della Bottega di Bologna. Devo dire che è stata la trattoria premiata dalla guida del Sole 24 Ore quest'anno. Buongiorno Minarelli. Vuol dire che il ragù deve mantenere delle caratteristiche come di grande tradizione. Il ragù, aspetta, deve essere fatto come depositato alla Camera di Commercio il 17 ottobre dell'82, con un ragù fatto con la carne della cartella e con la pancetta, con il fondino di odori, il concentrato e poi il condimento deve essere fatto fumare da un goccio di vino. Senta Minarelli, io le volevo chiedere questo. Lei ha partecipato a New York, se non erro, alla serata in cui è stata presentata la tagliatella alla bolognese. Molti hanno scritto che in quel ragù è stato usato l'aglio. È vero questo? Pronto? Pronto Minarelli? È sparita la voce di Minarelli. Sentiamo Marco da Latina, un radioascoltatore. Buongiorno. Buongiorno Marco, mi dica. Allora, a parte i complimenti, Radio 24 la tengo accesa, quindi è inutile farli, sono superflui. Io volevo farvi riflettere su una sola cosa. Il ragù napoletano, per me che sono per metà romagnolo e per metà napoletano, assaporo tutte e due le cose, ma il ragù napoletano era un piatto povero, ragazzi, era un piatto che si mangiava la domenica e doveva riempire la pancia di quelli che non avevano mangiato per una settimana, ecco perché è così corposo, e veniva preparato dalla mattina perché oltre a riempire la pancia doveva riempire anche, inebriare anche la testa, il cervello, di quello che era l'aspettativa durante l'arco della settimana. Quindi mi sta bene tutte queste cose, i premi, non premi, l'aglio, non l'aglio, però non dimentichiamo che la nostra cucina penso, presumo, parte sempre da un fattore unico, che sono dei piatti poveri che venivano fatti in quella maniera, belli, corposi, grazie, per sostenere tutta la famiglia. Grazie, grazie Marco. Io torno a Minarelli alla domanda che gli stavo facendo, se è vero che durante la presentazione appunto della giornata della tagliatella ragù, a New York nel ragù è stato inserito l'aglio. L'aglio, ma nemmeno per sodio. Noi abbiamo fatto a New York un ragù classico come disciplinare, depositato alla Camera di Commercio, con il ragù della carne della cartella, che è la carne del diaframma, perché è una carne più sugosa, più elastica, che quando soffrisce, perché il ragù si chiama soffritto perché bollire al sole, viene usato la carne della cartella e la carne della pancetta di maiale. Bene, grazie Minarelli. Rigorosamente. Dica, rigorosamente. Dobbiamo avere la continuità se vogliamo mangiare i grandi piatti di tradizione come devono essere fatti, come sono. Questa è la tradizione. Daniele, ma cosa combini e abbiniamo al ragù, alle tagliatelle al ragù? Quale vino? Quale vino? Da un grandissimo Lambrusco, un grande Sangiovese. Bene, a presto. Il territorio, vino del territorio. A presto, la ringrazio. Abbiamo con noi Massimo Bergami, che è un docente universitario, ma è un personaggio di peso, lo ripeto, di peso nella gastronomia bolognese. Buongiorno Bergami. Ciao Davide, buongiorno. Bene, allora io a te voglio fare una domanda di questo genere, ma la tradizione, con questi piatti della tradizione, servono per promuovere i prodotti o non servono? Ma io credo che i piatti della tradizione servano moltissimo per promuovere i prodotti, perché il ruolo della cucina ormai è dimostrato, credo che in tutto il mondo possa essere quello di ambasciatore dei prodotti dei territori. Poi dico una cosa a te, che sei, come dire, il promulgatore principale dell'idea dei giacimenti, è molto chiara. Attraverso i cuochi italiani in giro per il mondo, ove le ricette vengano eseguite con i prodotti originali e con le formule originali, c'è una grande possibilità poi di trainare tutto il settore, direi, enogastronomico e forse più in generale agroalimentare. In questo senso credo che l'iniziativa della tagliatella sia stata un successo. Io capisco bene chi dice: ma io non l'ho saputo tardi. In effetti questa è stata una cosa montata in pochissimo tempo e con pochissime risorse peraltro, però se pensiamo all'impatto di aver fatto provare 700 ristoranti in giro per il mondo, 600 non so quanto fossero, l'originale tagliatella bolognese, e chi gira il mondo sa che cosa viene associato al termine bolognese di solito, penso che sia stata un grandissimo successo, e credo che rappresenti anche un po' un modello da seguire. Quindi questa idea di replicare il Tagliatella Day la trovo molto interessante, ma trovo anche interessante proprio questa idea di questo modello di collegarsi ai cuochi italiani in giro per il mondo, associandoli ai territori. Se mi consenti ancora un secondo, per quanto riguarda la ricetta, non voglio entrare nel merito, però ricordiamoci che questo è un territorio in cui si dividono le famiglie sul, ad esempio, ripieno dei tortellini, cosa ci va dentro, cosa non ci va dentro. Quindi ma io credo che questa è una ricetta tradizionale, però c'è apparso ad esempio un interessantissimo articolo dell'ex sindaco Guazzalocca, che scriveva, parlo da macellaio simpaticamente, in cui rivisitava e in qualche modo relativizzava il ruolo della cartella, dicendo: ma la cartella forse è un ingrediente troppo antico, ci sono delle modalità anche più contemporanee. In questo senso l'importante è rispettare la tradizione e i concetti centrali della tradizione, ma sappiamo che poi ci possono essere delle piccole varianti. Bene, grazie a Bergami. Sentiamo un altro radioascoltatore, Arturo da Roma. Buongiorno Arturo. Buongiorno Paolini, volevo soltanto esaltare il piatto, che il ragù, diciamo, è forse il piatto migliore che abbiamo in Italia. E da buon romano le devo dire che al secondo posto, dopo le tagliatelle, con gli gnocchi il ragù si sposa benissimo. Bene, grazie Arturo. Io volevo dire in conclusione di questa trasmissione, un discorso sulla tradizione, sui piatti italiani che ci vengono propinati all'estero, che indubbiamente esistono dei problemi per il ricorso alle materie prime. Sicuramente non si può pretendere in Australia o negli Stati Uniti di avere carne italiana, ovviamente, neppure la pancetta italiana, è molto difficile poterla reperire, quindi sicuramente si fa ricorso al mercato locale. locale, però deve rimanere di fondo la tradizione, non si possono aggiungere cose estemporanee, appunto come viene, mi è stato segnalato negli articoli aglio o altre cose così che assolutamente non fanno parte appunto di quella ricetta. Si possono inserire dei prodotti succedanei sicuramente, ma non sicuramente qualcosa di completamente estemporaneo. In secondo, bisogna dire che la responsabilità di aver diffuso all'estero prodotti, piatti italiani che sono stati completamente cambiati, camuffati, taruccati, è della ristorazione italiana all'estero. Sicuramente basta andare in giro per il mondo e si vedono le bandierine fuori, si vede scritto cucina italiana, cucina napoletana, cucina bolognese, in realtà poi dentro c'è tutt'altro. Quindi credo che siamo noi i maggiori responsabili, sono gli italiani i maggiori responsabili, non diamo la colpa agli stranieri, gli stranieri seguono quello che gli viene proposto ovviamente. Quindi credo che cominciare a diffondere le ricette, anche creando tanti dibattiti, ma il dibattito è diciamo foriero di miglioramenti ed è anche un sintomo di quanto si tengono in considerazione, di quanto si tiene in considerazione la tradizione e la cucina italiana. Bene, io vi saluto, vi do appuntamento domani durante il wine bar del Gastronato, ogni giorno con la pillola che non è più alle 18.30 ma è alle 11.05 e con replica alle 23.05. Vi saluto e anzi vi dico anche che la replica di questa trasmissione è questa sera di notte verso mezzanotte, quindi chi volesse riascoltarlo può farlo benissimo. Buon weekend dal Gastronauta.